che un certo tipo di educazione all'uso, all'utilizzo e alla fruizione di questi strumenti va imparata in qualche modo. Ma sai la cosa interessante, forse anche divertente, ma anche tragica, che in realtà le nuove generazioni, i nativi digitali, quelli che abbiamo visto e acclamato come la nascita di una nuova forma di umanità, sono anni luce lontani da quelli di cui stiamo parlando adesso. Questo è un dibattito da 30-60enni, secondo me, perché alla fine gli altri, ormai per loro non esiste più il confine geografico, per loro è il mondo e si muovono su altri spazi, o forse questa è la mia visione romantica? Sì, non lo so, però io mi immagino quando si ascolta l'affermazione che i vaccini provocherebbero, diciamo, l'omosessualità, no? Ecco, sì, quindi... poi sai, tutti ne facciamo uso perché è divertente, fa notizia, trovare lo scemo di turno che ci viene a dire questa cosa qua, capito? Quindi sì, però diventa notizia, assume, ecco, credito. Ecco, io credo che sia verissimo quello che stai dicendo, credo anche che comunque è un esperimento, una cartina tornasole per vedere il meccanismo della rete, no? Per vedere come si diffonde, poi una cosa che magari anche 15 anni fa poteva essere già stata detta, ma rimaneva nella piazza, nel cortile. Poi vedi la differenza, che il signore che diceva che i vaccini fanno venire l'omosessualità, è una decina d'anni viene considerato un troll, un disturbatore di newsgroup, lo conosciano tutti e lo prendono per il culo. Adesso è diventato un personaggio, comunque viene interpellato, dice la sua, ha comunque un credito ufficiale, credito, ha un luogo ufficiale in cui potersi esprimere, anche per essere preso in giro, sì, comunque ha fatto un salto in avanti. Esattamente questo volevo dire, che è vero che la rete, proprio per sua struttura, è fatta di tanti infiniti, diciamo, nodi, ma ci sono dei nodi che contano più di altri, no? Che la cui opinione vale più di altri. Quello di Beppe Grillo è un nodo che ha molta reputazione, quindi molta autorevolezza, quindi quello che dice è qualcosa che conta più di quello che dico io, che diciamo tutti noi singoli, diciamo, che fruiamo la rete. Ecco, quel discorso vale soprattutto per questi nodi. Ricordiamoci meccanismo analogo 6-7 anni fa, quando era durante le elezioni, le prime elezioni che vinse Barack Obama. Obama è un musulmano, no? E questo era un tema che si ponevano molto lo staff di Obama per veicolare in rete un'opinione che falsificasse questa qua, no? È molto complicato, appunto, proprio per la struttura della rete. Allora, vediamo, Andrea Rossetti, a te la conclusione. Abbiamo detto l'intermediazione. Allora, come si fa a ristabilire un principio, ahimè la parola è brutta, ma di gerarchia di opinione e di idea dentro la rete, in cui uno vale uno? È davvero complicato. Ecco, io non direi che, insomma, gli studiosi poi devono entrare effettivamente in rete, perché porta via molto tempo, insomma, noi alla fine studiamo. Quello che manca adesso come adesso è veramente una categoria. Beh, tu ci stai. Sì, ci sto, ma non tanto quanto ci dovrei stare, perché dopo un po', ad esempio, abbandono anch'io la discussione, perché gestire queste cose è davvero complicato, proprio perché in rete comunque di primo acchito uno conta uno, insomma, quindi discutere con le persone a volte è davvero complicato. Io non sono un comunicatore in prima battuta, io sono soprattutto uno studioso. Quello che manca, secondo me, adesso in Italia è una classe di persone che si facciano intermediare del sapere che viene generato in una maniera tradizionale, scientifica, all'interno dell'università, nei centri di ricerca e l'opinione pubblica. Quello che manca, secondo me, questo è adesso. Ripeto, non si può pretendere che gli studiosi entrino e passino tutto il loro tempo in rete, perché semplicemente non farebbero più ricerca, sennò, perché comunicare correttamente in rete è faticoso, richiede tempo e richiede anche specializzazione. Però in qualche maniera qualcosa che dia una presenza e un correttivo in rete rispetto al grande fiume in cui veramente uno vale uno, è ora che qualcuno comincia a pensarlo, no, e immaginarlo. Certo, ma io credo che secondo me è la funzione del giornalista del futuro, secondo me, questa qui, più che dello studioso, appunto, ripeto, perché se lo studioso passa il tempo a comunicare non studia e quindi non sta facendo il suo mestiere. Invece, secondo me, quello che manca è proprio questa funzione, questa capacità dei nuovi giornalisti, delle nuove generazioni di giornalisti. Un informatore con basi solide che si esatto, faccia da intermediazione. Esattamente, che sia in contatto con i centri di ricerca, capisce davvero quello che viene fatto e comunichi correttamente quello che viene fatto nei centri di ricerca filosofica, scientifica, sociologica, insomma, in tutti i tipi di ricerca. E non deve essere un autore di fantasy, naturalmente, se no vediamo della televisione, sappiamo come ha affrontato questo problema. Grazie Andrea Rossetti, grazie a Stefano Morigi, Vincenzo Cosenza, Alessandro Lanni, Gilberto Corbellini, naturalmente il professor Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti.